Sapete dirmi perché in un momento della vita dove tutto dovrebbe avere il colore dell'amore e la speranza per il futuro, gli adolescenti di tutto il mondo si sono alleati per eleggere al loro mito epocale la figura del vampiro? A me i succhiasangue non sono mai piaciuti e quando vedo la stanza di mia figlia 14enne tappezzata dalle foto degli attori della saga New Moon e la sua libreria invasa da romanzi a contenuto vampiresco, mi sento proprio disorientata. Ma voi lo sapete perché i vampiri oggi vanno tanto di moda tra i nostri figli? E dovrei preoccuparmi per il fatto che mia figlia attorciglia sogni e fantasie intorno a questo genere di personaggi? Oppure posso stare tranquilla? Grazie, mamma Paola. Tranquilla, mamma Paola, mi sento già i dentini che crescono. Alberto, anche tu hai dei dentini un po' a punta. Allora, Ma come mai? Non te li ho mai notati. Parli di vampiri e spuntano i denti, però mamma Paola fa una domanda che secondo me è una domanda condivisa da molti genitori. A me è capitato più volte di sentirmi chiedere da mamma e papà: ma cosa avranno di così speciale i vampiri per essere diventati tanto popolari in mezzo ai nostri figli? Ma a te non piacevano quando eri piccolo i vampiri? Ma sai che io non ho mai avuto questa attrazione fatale, però mi domando... Senti, come mai qualcuno ce l'ha? Allora Alberto, per rispondere a questa domanda da mille punti abbiamo, non posso dire un vampirologo, ma un grande esperto che è ordinario di filologia all'Università della Calabria e ha scritto un saggio che fa proprio al caso nostro, La melanconia del vampiro, mito, storia e immaginario. Allora saluto il professor Vito Teti, buongiorno professore. Buongiorno a voi, eccomi qui. Professore, ma... a lei quindi i vampiri le piacciono in modo particolare, immagino? Ma diciamo che ci convivo bene, perché poi convivere con i vampiri significa convivere anche con noi propri fantasmi, con le proprie ombre, interrogarsi sul senso della morte, ma anche dell'amore, per cui capisco l'apprensione, il disagio della signora che scrive, però vorrei tranquillizzarla. Sono io invece che sono un po' preoccupata, professor Teti, perché ho notato proprio questi dentini un po' di Alberto, però siamo tranquilli perché è giorno, quindi il vampiro di giorno non c'è. Sì, poi potreste comprare anche, ne so, dell'aglio, degli specchi, insomma, dei crocifissi, quindi io vorrei anche fare pensare alle mamme che si preoccupano che le nostre fiabe non erano poi più rassicuranti, più tranquillizzanti. Gli orchi, i lupi che mangiavano le nonne. Allora forse bisognerebbe considerare questi vampiri come delle figure romantiche che introducono in un mondo neogotico, e se in passato i vampiri avevano un aspetto inquietante, violento, adesso sembrano essere diventati degli amici degli uomini, sono diventati troppo umani. Per riprendere il titolo del mio libro, sono melanconici, sono dei supereroi, quindi potremmo dire che assomigliano a Spider-Man, a Superman, possono fare tutto, però poi soffrono per amore, si innamorano, hanno delle difficoltà, e da questo punto di vista forse questo che può attirare i ragazzi, i giovani, che si pongono domande ulteriori rispetto a quelle che la quotidianità offre loro. Professore, mi faccia vedere un po' se ho capito bene. Allora, un tempo il vampiro era un personaggio del mondo della letteratura o del teatro sospeso tra orrore e romanticismo negli ultimi anni, ed effettivamente era molto fruito, goduto dagli adulti. Negli ultimi anni ce l'hanno un po' modificato, ce l'hanno reso quasi vicino a noi, molto combattuto in pensieri, emozioni decisamente romantiche, e è diventato una passione per gli adolescenti. Ma cosa ha in comune con il mondo degli adolescenti? Cioè, il vampiro rimane un sogno, una proiezione, una fantasia, o qualcuno con cui è possibile anche identificarsi per un ragazzo tra i 14 e i 18? Ecco, mi viene in mente che una delle grandi autrici di storie vampiriche, Anna Rice, Intervista col vampiro, eccetera, da cui poi sono stati tratti dei film importantissimi, notissimi, che forse ha dato origine poi a questa ultima moda vampirica, negli ultimi tempi ha deciso di occuparsi di angeli. Ora, passare dal vampiro agli angeli è una sorta di pentimento, oppure è il segnale che comunque c'è una sorta di introduzione in un altrove, in un sogno, in qualcosa che ci allontana dalla realtà. Questo nel bene e nel male. Forse allora i ragazzi, i giovani attratti dal vampiro sono attratti da un eroe infelice, da un eroe che ha dei poteri eccezionali, ma che, come dicevamo, è umano, è troppo umano, soffre anche lui, e quindi l'elemento dell'identificazione può essere questa ricerca di amore, di vicinanza, di solidarietà. Ecco, per esempio, i vampiri di Twilight a me colpiscono perché hanno le loro regole, hanno le loro norme. Lei però, professore, solleva proprio una questione che a noi sta molto a cuore, perché io non ho letto libri di vampiri, però ho letto le recensioni dei libri sui vampiri e devo dire che, per esempio, la saga Twilight, che è piaciuta tantissimo ai ragazzi, che è poi diventata un blockbuster al cinema, ha venduto tantissimo, ha fatto guadagnare tantissimi soldi, ma sia dagli esperti di letteratura che dagli esperti di cinema, soprattutto il secondo episodio, è stato veramente criticato male. In effetti non sono dei grandi film, ma qui, come diceva lei, si inserisce la grande industria culturale, il cinema, i gadget, per cui artatamente inventano delle tradizioni, dei modelli culturali che non trovano una corrispondenza reale né nell'immaginario, diciamo, del passato, e forse nemmeno nell'immaginario comune odierno. Potremmo dire che il mercato ha vampirizzato il mondo dei vampiri. Assolutamente. Magnifica, Alberto, questa devo dire una metafora, questa del vampiro che vampirizza tutto quanto. Ma è bravo o no, professore? Lei che è un professore. Io penso che possa diventare un vampirologo. Un vampirologo anche, Alberto. Dopo gli adolescenti toccherà i vampiri. E siamo però molto curiosi di entrare in una libreria specializzata in libri per bambini e ragazzi, esattamente la libreria Ponte Ponente di Roma, dove ci aspetta Annarita Marchetti, la libraia, che ha visto la sua libreria probabilmente invasa da questo mondo di vampiri negli ultimi 2 o 3 anni, e siamo davvero interessati a capire cosa le dicono i genitori e cosa le dicono i ragazzi quando vengono a cercare un libro che parla di vampiri. Buongiorno Annarita. Salve, buongiorno. I bambini ormai sono appassionati di vampiri, non è stato soltanto l'evento Twilight che l'ha portato in auge. Basti pensare che già Geronimo Stilton aveva già fatto tutta una serie legata ai fantasmi, ai vampiri, nonché Scooby-Doo, non so se vi ricordate. Certo, come faremo a non ricordare? Certo, l'età. Tutti i fantasmi, mostri e vampiri, e tutta la serie naturalmente è andata anche nell'ordine poi bibliografico, e da sempre praticamente è uno dei più amati dei bambini, almeno più piccoli, mentre la saga invece Twilight ha conquistato, diciamo, le adolescenti, ma soprattutto dopo il fenomeno cinematografico. Però i vampiri poi di solito sono belli, professor Teti? I vampiri attuali, ma vorrei ricordare anche la serie di Buffy, per esempio, dove chi sono i vampiri lupimannari? Sono dei giovani liceali, normali, che si pongono i problemi dell'amore, i problemi quotidiani. Quindi questa, diciamo, questa moda effettivamente va e viene. I vampiri sono belli, i vampiri del cinema sono belli, i vampiri del passato erano belli e brutti nello stesso tempo, e questo affascina il lettore, questo carattere perturbante del vampiro che da un lato ci attira, dall'altro ci respinge, ma qui c'è il rapporto proprio con la morte, con il revenant, questo tentativo da un lato di esorcizzare la morte, l'altro radicalmente altro, e dall'altro forse di interrogarci sulla morte. Io poi non dimenticherei nemmeno che c'è una cosa che si chiama il fascino dell'orrore, il fascino del male, e però già nell'Ottocento Polidori, Gautier e Lefano descrivevano vampiri e vampiresse, vampire donne, affascinante, belle, irresistibili, erano eroi fatali con gli occhi ammaglianti che rovinavano solamente con lo sguardo, ti mangiavano come fa il protagonista di Twilight con gli occhi, e quindi questo dato di attrazione nello stesso tempo di ingestione attraverso lo sguardo è un elemento che ritroviamo già nella letteratura ottocentesca. Ma Alberto, tu che sei il papà della trasmissione, adesso che non ti stai ancora trasformando, quindi possiamo dire bollino blu per i libri che parlano di vampiri, o avresti delle perplessità in base alle fasce d'età? No, io credo che un adolescente, quando si orienta su un genere, su un libro, chiaramente sta coltivando una passione. La lettura non è educativa per un adolescente in una dimensione, deve essere proprio divertimento, per cui se quello è il suo divertimento, io mi pongo poi la domanda che sta dietro la domanda, cioè qual è il significato, qual è il bisogno che proprio quel libro e quella scelta vada a assolvere per i ragazzi, e non avevo le idee chiare, devo dire che adesso con questa trasmissione me le sono proprio chiarite qua sul colpo, quasi trasformandomi in un vampiro. Sperando che tu, Alberto, non ti trasformi in un vampiro, facciamo un attimino di pausa e poi torniamo di nuovo insieme. Faremo accomodare nel nostro salotto una nuova ospite. Per scoprire chi è, non andate via, basta restare. Questa casa non è un albergo. Eccoci di nuovo insieme, siamo pronti per affrontare l'ultima parte di trasmissione, però Alberto caro, non siamo soli perché ci ha raggiunto un ospite speciale. Provate a riconoscerlo, io vi do il classico aiutino. Alla Banzai! Il peggiore incubo di ogni genitore. Bambini completamente fuori controllo che rendono la casa un inferno. Queste famiglie hanno raggiunto il limite. Hanno un disperato bisogno di aiuto. Gli rimane una sola opportunità, chiamare SOS Tata. Ogni settimana un team di tate specializzate e molto competenti riceverà la telefonata di una famiglia in crisi e deciderà quale tata è la più adatta per risolvere i loro problemi. La tata avrà una settimana di tempo per ristabilire l'ordine in famiglia e restituirle la serenità. Queste famiglie possono essere salvate. Ce la farà la nostra tata? Genitori d'Italia, la tata sta arrivando da voi. E genitori di questa casa non è un albergo, la tata, la mitica tata, noi ce l'abbiamo qua in studio e la salutiamo. Devo darle del lei perché... No, anche... Sì, dai. Posso? Sì, posso, sì, sì. È la tata Lucia, bentornata. Buongiorno a tutti, io non mi metto nessun fiocco di pacco regalo, ma vi dico che ce la farete senz'altro, soprattutto durante le feste. Nicoletta, noi abbiamo la tata più multimediale del mondo, è in TV. Poi viene in radio da noi a Questa Casa Non È Un Albergo. In libreria. È appena uscito il suo nuovo libro, Fate i Bravi, 0-3 anni, è già schizzata in cima a tutte le classifiche di vendita. Sembra proprio che il mondo non possa più fare a meno delle tate. Perché c'è questo bisogno di tate, tata Lucia? Perché le mamme e i papà fanno altro. Fanno altro. È sempre un po' tagliente, è la nostra tata. Fanno altro? In che senso? Sono occupati fuori casa oppure non sanno più fare i genitori? Diciamo che considerano il fare i genitori quasi un'appendice della loro vita, non come si faceva una volta, una scelta prioritaria su tutto il resto. E quindi chiaramente poi si trovano in situazioni abbastanza difficili. C'è un punto di equilibrio tra quanto disordine è possibile far gestire a un bambino, quanto possiamo mettere in disordine perché l'attività è davvero coinvolgente, divertente, creativa, e quando invece è il caso di dire adesso basta perché stiamo mettendo troppo per aria la casa. L'adesso basta non si dovrebbe dire, si dovrebbe organizzare l'antecedente. Diamo un limite, entro quel limite chi non sta entro il limite perde un punto, quindi non vince. Ecco, perché Alberto tende a... Certo. Vero, noi ci capiamo. Certo. Ci siamo guardate, peccato che siamo per radio, abbiamo capito che sono delle idee che ogni tanto tirano fuori i papà e fanno molta figura con i bambini. Poi il papà si alza e se ne torna nelle certo. sue faccende e i bambini non hanno più voglia e la mamma la volta dopo dice no, mi mettete in disordine la casa, e passiamo per quelle che... Non un vogliono. Altro gioco molto che i bambini, organizzato bene, i bambini si divertono molto, sono le pulizie di casa. Ah sì. Bambino di 7 anni è in grado di passare l'aspirapolvere tranquillamente, facendo spaventare il fratellino che invece col papà può spolverare, per esempio, perché lui tiene in mano il vasetto e papà spolvera o viceversa. Lasciamo solo i giochi che veramente usano. Se un gioco non è stato usato per 2 settimane, va tolto, mettetelo in cantina. Mettetelo da un'altra parte. Poi in un momento in cui il bambino è stufo, stanco, è stato a casa 15 giorni perché gli è venuta la varicella, andate a prendere quel gioco lì, vedrete che festa. Questa è una bellissima idea, vero Alberto? Tu li... Noi dobbiamo fare periodiche revisioni dei giochi che ci sono negli armadi dei giochi, perché effettivamente entra tanta roba e bisogna anche farne uscire tanta. Ma anche perché sennò il tanto diventa una confusione, certo. Non si divertono più. Ma adesso Tata la mettiamo al lavoro, sentiamo la lettera che abbiamo ricevuto e che sottoponiamo alla sua attenzione. Avete altre volte parlato dei compiti a casa che i nostri figli si vedono assegnati dalle maestre e credetemi, come mamma, a volte tutti quegli esercizi di matematica e pagine da studiare a memoria richieste a mio figlio di 9 anni mi sembrano davvero un'esagerazione. Già so che anche in queste vacanze dovrò passare ore al fianco di mio figlio che verrà caricato di compiti a più non posso. Ora vorrei capire... Ma è davvero indispensabile ipotizzare che i nostri bambini facciano vacanze senza l'ossessione di questi compiti così antipatici? E avete qualche consiglio per aiutare il mio bambino di 9 anni a non sentirsi travolto dalla mole di compiti che gli verranno assegnati? Ho il diritto, secondo voi, di scrivere alle maestre e di dire che mi aspetto un po' di moderazione? Allora Tata, parliamo di compiti. Secondo lei qual è la ricetta vincente? Cosa ci vuole insomma per passare delle vacanze serene? Ci vuole molta collaborazione tra l'insegnante e la famiglia e che i compiti non vanno mai dati in modo superiore alle forze del bambino. Deve essere una cosa che lo esercita, sì, soprattutto io... Di solito assegnavo quasi esclusivamente lettura e qualche cosa di matematica, ma molto veloce, in modo che il genitore all'inizio delle vacanze fa un programmino, trova nella giornata, nelle 8-9 ore della giornata, quella mezz'ora in cui fare i compiti. Alberto, tu come ti organizzi? Devo dire che a volte effettivamente mezz'ora al giorno non basta per fare tutti i compiti che ci sono da fare. Per noi poi è proprio importante individuare da una parte il tempo della giornata che dovrà essere dedicato ai compiti, certo, in base a quanti compiti hanno i bambini. Il secondo aspetto è che ai bambini mettiamo dei limiti, cioè entro le 7 se vuoi devi aver fatto i compiti che ti spettano oggi. Sì. Se non hai finito di fare i compiti, basta, questo non è più recuperabile. Quindi domani dovrai riorganizzarti, perché è proprio molto importante anche lasciare uno spazio di organizzazione autonoma in cui il genitore presidia, accompagna, sta vicino, sta di fianco, ma non può sostituirsi. Ecco, al quindi bambino. Scusa, non, come genitori non dobbiamo dire al bambino dalle l'ora dei compiti va dalle 2 alle 3. Noi gli diciamo, possiamo anche dirgli, cioè possiamo dire la giornata oggi sarà piena, per cui è meglio se li fai tra le 10 e mezzogiorno. Sì, non tutti i bambini sono in grado però di autogestirsi così, soprattutto anche i grandi. Perché effettivamente tutto il resto è prioritario rispetto ai compiti, per cui sarebbe meglio all'inizio delle vacanze mettersi lì seduti in famiglia e dire benissimo quali sono le cose inderogabili, che magari sono anche andare a fare la spesa per la mamma piuttosto che fare la telefonata per il papà, eccetera, e si vede qual è l'ora, la mezz'ora secondo. Poi io invito comunque sempre, la mamma diceva posso chiedere, è chiaro che all'ultimo momento non è possibile chiedere all'insegnante, ci vuole un rapporto, cioè nel momento in cui all'inizio dell'anno la mamma si accorge che il suo bambino non è in grado di fare in un tempo correttamente adeguato il suo compito, deve andare dall'insegnante e cercare di risolvere questo problema. Come mai mio figlio ci mette un'ora e mezza? Perché non sta attento. Quando spiego, cara signora, suo figlio, suo figlio si distrae, perché noi, se il bambino sta attento, i compiti sono fatti già all'80%. Molte volte ci si sente dire così. Benissimo. Almeno mia mamma dicevano sempre così. Allora, però, se c'è questo problema di attenzione, anche questo va risolto con degli accorgimenti adeguati. Quindi la strategia va adeguata al bambino. Certo, su misura. Però, proprio come diceva prima lei, che consigliava tanta lettura, che secondo me è anche appassionante, certo, non faticosa ma appassionante, e pochi compiti. Riprenderei la domanda di questa mamma: ma secondo lei è davvero impensabile che i bambini non abbiano proprio compiti da fare? Io francamente, come dico, io per esempio alle elementari davo la lettura e poi quel famoso pensierino, cosa mi è successo di bello, io davo un foglio diviso a metà, per esempio. A volte mi è piaciuto, non mi è piaciuto, bastava scrivere la cosa e quello per me era sufficiente. Poi arrivi a scuola, se vuoi, gli fai fare l'analisi grammaticale. Mi è piaciuta la mela, benissimo. Eccola, la mela, lì. Articolo, lo fai a voce. Sì. Farei una petizione agli insegnanti. Proviamo. Nel senso che, per esempio, facciamo geografia, chiediamo ai bambini: dove sei stato? Com'era la montagna? Parla ai tuoi compagni, fai una lezione sulla montagna, fai una lezione sul mare. Lì è studio, capito? Certo, perché il bambino deve raccogliere le idee, documentarsi. Fare, capito? Facciamo fare da loro, integriamo, e il bambino ha fatto un lavoro splendido che non dimenticherà mai, perché un bambino che viene messo in cattedra a fare una lezione non se lo dimenticherà mai. Tata, noi la vogliamo presto qua. Allora, un abbraccio, grazie alla Tata Lucia. Grazie a voi e auguri a tutti, divertitevi, tornate bambini. Alberto, anche tu, No, forse raccomando. Non ce n'è bisogno, lo sono già. Buona giornata da Nicoletta Carbone e da Alberto Pellai.